Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buongiorno, benvenuti, bentrovati, bentornati. Sono Luca Tremolada al microfono e siamo in compagnia di Guido Romeo Puntatona. Puntatona, perché siamo alla top 10. Siamo alla top 10, Mideona e Puntatona. Ci siamo inventati insomma le 10 scoperte scientifiche che rimarranno nella storia del 2009. Come le abbiamo scelte? Le ha scelte Guido Romeo. Nessun criterio scientifico, quindi semplicemente lui decide e io sono costretto a subire i suoi voleri. Sì, sono qua con il camice bianco e la parrucca bionda e bianca di Einstein. Esatto. Quindi... Però insomma abbiamo voluto fare una cosa che fanno un po' tutte le emittenti, la facciamo anche noi, cercare un po' di mettere ordine in quello che è successo durante l'anno. L'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti. Allora, partiamo dal numero uno, che però non è una numero uno, nel senso che noi diamo un ordine che però non è un ordine cronologico. No. È successo cos'è? Un mesetto fa, la scoperta del spermatozoi e ovociti dalle staminali. Sì, è successo un po' più di un mese fa, in realtà è stata pubblicata un mese fa, poi era successa nei mesi precedenti, comunque è a tutto diritto del 2009 e la scoperta, per essere precisi, è che alcuni ricercatori guidati da René Reggio de Pera, che è una ricercatrice californiana, sono riusciti a trasformare delle cellule staminali della pelle in cellule germinali, ecco, cioè però, in spermatozoi. Fermo un secondo, perché adesso tu sei precisino, perfetto, la stai dicendo giusta, però non è stata raccontata così. Sentiamo un servizio che fa un po' il riassunto di questa vicenda. Il caso l'ho sollevato il quotidiano britannico Daily Mail con questo titolo che in pratica suona così: uomini e donne non servono più per mettere al mondo un bambino, gli scienziati hanno creato spermatozoi e ovuli dalle cellule staminali. Il riferimento è una ricerca condotta dagli studiosi dell'Università di Stanford, pubblicata da Nature. Di fatto, i ricercatori hanno perfezionato un protocollo già in uso da 2 anni per far specializzare le embrionali. Attraverso un mix di fattori chimici le hanno indirizzate in modo tale da costituire le cellule che formeranno i cosiddetti gameti, che sono appunto alla base della fecondazione. Ma è corretto dire che in questo modo si apre la strada alla nascita di bambini senza genitori? Ecco, perché all'inizio si è subito detto, si è subito scritto sui siti che insomma non servivano più né mamma né papà, che ormai si potevano fare i figli tranquillamente senza nessuno. Beh, i papà da tempo servono sempre meno, qualcuno dice. Non facciamo battute. Però quello che è emerso è che insomma questi spermatozoi non servivano un granché, non servono un granché dal punto di vista della riproduzione, ma il significato scientifico è un altro. No, la cosa importante, e qui è grossa, diciamo, perché è vero, non gli spermatozoi e gli ovociti prodotti non possono arrivare a dare dei bambini, cioè quelli che erano sono stati piccoli, brutti, erano piccoli, non funzionano. Soprattutto i ricercatori si sono fermati prima di arrivare a delle cellule degli spermatozoi, degli ovociti completi ed efficienti. Il punto importante è che i ricercatori a un certo punto hanno detto: diteci dove dobbiamo fermarci. Nel senso che mettendo più soldi, mettendo più tempo, e qualcuno ce li metterà, mettendo più gente a lavorare, più cervelli a lavorare, si potrà arrivare ben oltre questi limiti. Il tema è spinoso, come si insegnava nelle scuole di giornalismo, e come tutti i temi spinosi, insomma, direi che è bollente. È bollente, per cui non è detto che ci metteranno tutti questi soldi, perché insomma gli scenari che si aprono quali sono? Non sono solo combattere l'infertilità. Ecco. Beh, allora mettiamo ordine. Sì, certamente c'è lo scenario che giornalisticamente è più, come dire, evocativo e quello moralmente più inquietante, che è, diciamo, la sostituzione dei metodi tradizionali / naturali, vogliamo dire, con una riproduzione tecnica che è, diciamo, svincolata dalla presenza di esseri umani, che siano uomini o donne. Però c'è anche passione, mettiamola così, dai. E anche della passione, va bene, perché siamo tutti figli della passione. E anche dall'amore, dai, diciamo così. Sto arrossendo. Vai. Insomma, svincolata, quindi, insomma, da un atto di volontà, da passione, sentimento. Sì. Però anche grande conquista, perché la, l'infertilità maschile soprattutto, ma anche femminile, è in mostruosa crescita, cioè viviamo più a lungo, facciamo figli sempre più tardi, ma ci riproduciamo sempre con più fatica. C'è anche cioè un fattore che tu direi, sicuramente non c'è ancora lo studio scientifico, però so che ci sono qualcosa, è stato scritto anche su Nature, l'inquinamento. Non è provato, ma pare provato. Che soprattutto a noi maschietti, da piccoli, su di noi maschietti ci dà molti problemi. E la maggior parte dei problemi di infertilità poi sono maschili, e la maggior parte dei costi sanitari per i problemi di infertilità sono femminili. Beh, no, sono femminili, anche, sì, i costi umani, vabbè, sì, ma poi sono causati anche dall'uomo, insomma. Passiamo al numero due e parliamo dell'LHC. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche durante la trasmissione, ti ricordi? Se non ti ricordi, ti faccio ricordare. Attivare i magneti di iniezione. Protone in movimento. Abbiamo l'antimateria. Era la caccia alla particella di Dio, era un estratto del film tratto dal libro di Dan Brown, Angeli e Demoni. Sì, era l'LHC che produceva antimateria al suo avvio, e questa poi andava a distruggere il Vaticano. E cose, insomma. Però la parte divertente è che noi abbiamo realizzato questa puntata spiegando un po' cosa succede all'interno del CERN a novembre. Doveva riprendere a partire, tra l'altro, alla fine di novembre. È ripartita, diciamo, intanto la notizia è ripartita con molta meno fanfara di quella del 2008. Ci ricordiamo che nel 2008 erano partiti a settembre e poi avevano scassato tutto. Erano partiti ad agosto, perdono, e poi a settembre gli erano saltati un po' di giunti per un problema di saldature da idraulico. Poi si erano inventati, no, c'è il sabotaggio, no, no, è perché ci crea il buco nero. C'è la maledizione, però, cioè, lì c'è la maledizione, insomma, c'è questo racconto contro la maledizione che è formidabile, cioè c'è stato la rottura della macchina, c'era stata una vittima di un operaio che, poveraccio, ci ha lasciato le penne, c'è morto nella costruzione, c'è stato l'arresto di un ricercatore medio orientale che lavorava lì e il suo fratello era coinvolto con Al-Qaeda, la mano dei Templari, e c'è stata una caduta di tensione qualche settimana fa perché un Barbagianni si è appoggiato su un filo di alta tensione. Allora, e si è fulminato. Ti interrompo un secondo, cioè Guido Romeo va a memoria, cioè non è che se le segnate queste cose, si ricorda tutte le sfortune, per non dire un'altra parola, dell'acceleratore. Fantastico. No, è che io ci vado, ogni tanto ci vado, e quindi uno non sa se sperare di essere lì quando magari succede il fatale, la causa di questa cosa che vai lì a sabotare, oppure, perché sei oppure non sa, dice oddio, magari tocco una maglia di una porta, sbatte qualcosa, sbatte una finestra e qua ferma di nuovo. Il dato vero, insomma, che è stato un po' quest'anno è stato un po' una telenovela, questo. Sì, ma il punto che volevamo fare è che alla fine sono partiti e hanno fatto il record di energia dentro all'acceleratore. Hanno superato gli americani, questo è grosso, certo. E non ce la stanno perdonando, perché subito gli americani hanno già risposto: sì, voi avete più energia, un 50% in più, però noi abbiamo più potenza perché abbiamo più particelle nel Tevatron, quindi ecco, ragazzi, la gara è cominciata. Noi italiani diremmo soldi spesi bene, però poi anche quello è il tema, perché questo è il più grande esperimento scientifico della storia dell'uomo, sì. Dell'uomo, sicuramente si sono spese tonnellate di danari, non si sa bene quale sarà l'output, il risultato della scoperta, però insomma andiamo avanti perché ci piace. Beh, poi, e con questa la chiudiamo, ma un dato interessante di cui magari parleremo in un'altra puntata è che l'80% dell'energia che viene utilizzata per questi benedetti fasci di particelle viene buttata via, cioè certo, viene sì, scaricata nel, come dire, nella terra, ecco. E non sappiamo che cosa nascerà dal... Poi il terzo punto è l'Antartide. Più caldo, più freddo, prima era più caldo, poi era più freddo, poi i telegiornali hanno detto no, non è vero, ci sono dei dati nuovi, non si capisce più nulla. Ma allora, È più caldo, siamo sicuri. Anzi, la notizia è proprio che è stato svelato che il Polo Sud non è vero che è in controtendenza, ma si sta riscaldando anche lui. E questo era un po' la grande spina nel fianco dei climatologi, perché vedevano una parte del Polo Sud che sembrava avere delle temperature non altrettanto calde, addirittura in calo. Addirittura ha parlato di glaciazione a un certo punto. Questo sempre sui giornali, però qualcuno aveva detto: no, ma attenzione che non solo non è vera la teoria del riscaldamento climatico, ma insomma ci sono zone del mondo in cui sono completamente in controtendenza. Sì, infatti c'era addirittura appunto la parte occidentale del Polo Sud. Io faccio sempre confusione perché al Polo Sud è difficile vedere occidente e oriente. Perché tu ci sei stato. No, però ci andrò, giuro che ci andrò, voi vi racconterò tutto, faremo un collegamento. Noi non vedremo l'ora, soprattutto di collegarci via radio con te al Polo Sud è una cosa che è immancabile. E poi se ci resti è anche meglio. Anche ti ci mandiamo al Polo Sud, che è un altro paio di maniche. No, comunque, insomma, questo qua l'hai scelta a tuo criterio, te ne assumi le responsabilità, anche perché lo storytelling, cioè il racconto di questa emergenza climatica, noi l'abbiamo visto con Copenaghen, lo vediamo pressoché ogni settimana, lo leggiamo sui giornali, è diciamo un fatto importante e strategico di quest'anno. Sì, diciamo che c'è anche il contro storytelling, perché vi ricordate che già settimane prima del summit di Copenaghen sono cominciate a uscire diverse storie che sono rimbalzate nei media. Dalla fine di quest'estate è partita la storia del raffreddamento globale, della pausa nella scalata delle temperature, poi è uscita la questione dei mail rubati all'università di East Anglia. Che anche quella giallone. Quella è un bel giallone. Perché lì praticamente cosa è successo? Sono uscite queste mail in cui si parlava di dati ritoccati, una sorta di maquillage per andare a Copenaghen e dire insomma c'è il riscaldamento climatico, quando invece i dati scientifici dicono il contrario. Lì è stata l'opera di un hacker, di uno dei tuoi amici, diciamo, che è entrato nei server dell'università e ha sequestrato questi mail. C'è chi pensa che più che un hacker era un negazionista, no? Come si dice in questi casi. Io dico scettici per rispetto, però è vero, perché negazionista è gente che ha negato cose più serie. Esatto. Però Me ne fa passare una oggi, Romeo. Vabbè, comunque passiamo alla scoperta dell'invenzione della cucina 75.000 anni fa. Io leggo come un bambino e resto abbasito come un bambino. Che c'entra la cucina? La cucina è importante perché abbiamo scoperto che cuciniamo sostanzialmente da qualcosa come 75.000 anni, forse 100.000. Poi c'è chi cucina bene, facciamo... chi cucina male... c'è chi cucina male da 100.000 anni, questo è vero. Dice, gli inglesi cucinano male da 100.000 anni. Gli americani peggio che andare di notte. Non mi toccare gli americani. Junk food. Ma che junk food? Apple pie e sweet potatoes. Vabbè, i tuoi gusti detti in onda sono una cosa che rattrista. Perché tu sei iperloca sulla cucina ligure. Ma la questione è, scoprendo che abbiamo degli antenati che cucinavano, gli Homo sapiens cucinavano, vuol dire che erano persone estremamente più sofisticate di quello che pensavamo, cioè scolpivano i loro utensili, scolpivano le pietre, li scaldavano. Però vedi, queste sono le scoperte che a me lasciano un po' perplesso, perché poi perché tu ti immaginavi ancora il primitivo che addenta la carne, la carne cruda, queste scene qui da fumetto. Bevono ancora il sangue dei loro animali, insomma. Ma perché? Perché tu non che c'entra il sangue degli animali? Però il tema è, perché dobbiamo pensare che il primitivo è una persona educatissima, il primitivo aveva la sua grotta, la sua cosa, i suoi disegni. Ma sì, difendiamo il primitivo. Sì. Poi anche il fatto di 75.000 anni fa, no? Perché poi c'è tutto questo mondo che gira intorno alla data, allora lo spostiamo di 2 anni, no, di un anno. No, ma infatti hanno dato una forchetta tra 75.000 e un po' più di 100.000, insomma, quindi è un comunque c'è questa scoperta qua, perché adesso la domanda è: perché secondo te è centrale per raccontare il 2009? Perché non sapevi perché da me? L'abbiamo scoperto nel 2009, non l'abbiamo scoperto nel 2008, non l'abbiamo scoperto nel 2010. E il punto che sappiamo quando abbiamo incominciato a cucinare è una delle cose che insieme al linguaggio ci rende umani, quindi è una delle definizioni di uomo. Di sì. Uomo si parla moltissimo, di evoluzionismo, creazionismo si parla moltissimo in questo periodo. Abbiamo visto anche il linguaggio, i neuroni a specchio. Ti ricordi la puntata che cosa aveva detto Rizzolatti? Le stesse aree cerebrali che si attivano quando noi sentiamo un'emozione, mettiamo conto il dolore, io sono stato pizzicato da qualcuno, ho preso una botta e sento male. Ecco, se vedo un'altra persona che ha avuto lo stesso accidente, si attiva esattamente la stessa area del mio cervello. Quindi non è che io faccio un processo cognitivo, dico, ah, quello ha sentito male, quindi io ho capito che ha male, ma effettivamente è come se fosse stato colpito, entro certi limiti ovviamente, ma comunque il meccanismo di base, quello che rispecchia l'attività dell'altro, è esattamente la mia area del dolore. Ecco, è vero che è stato un po' casuale come scoperta, come spesso accade. Questo mi dà un po' di fastidio, che non è stata casuale. Cioè, l'avete cercati. Che è stato casuale è la fortuna che esistessero questi neuroni, ma quello che noi abbiamo fatto è metterci nelle condizioni di poterlo scoprire. Cioè, io sono molto fiero di quello che abbiamo fatto prima che con Fadiga, Fogassi e Gallese, con Mattelli e Lupino e in parte Gentilucci. Cioè, noi prima abbiamo deciso che dobbiamo studiare il sistema motorio non nella maniera tradizionale, ma come se fosse un'area sensoriale, cioè le spiego meglio. Il sistema motorio molto spesso è stato considerato un produttore di movimenti e come tali studiavano la dinamica, la cinematica. Noi abbiamo detto no, vediamo come fa uno a decidere di pigliare un pezzettino di cibo. Cioè questi neuroni non sono così stupidi, non è che solo determinano la velocità o l'accelerazione, devono avere qualcosa di più, e abbiamo dovuto superare parecchie difficoltà, perché questo approccio che era usato nel sistema visivo, la storia del neurone, cosa fa quel singolo neurone? Noi l'abbiamo applicato nel motorio e quindi abbiamo dovuto usare un processo etologico, una maniera etologica, abituare le scimmie a stare con noi, a dargli i semini, cioè abbiamo fatto un lavoro preparatorio che ci ha portato delle scoperte importanti prima dei neuroni specchio, ad esempio sull'organizzazione dello spazio, che intorno a noi c'è un cuscino di spazio, e intorno viviamo come in un cuscino di aria, e quando uno entra in questo cuscino è come se ci toccasse. No, la casualità era semplicemente perché mi avevano raccontato, non so se sia vero, che c'era un gelato di mezzo, c'era un ricercatore che stava mangiando un gelato e la scimmia, lo scimpanzé, insomma, ha reagito d'istinto. Esatto, non è così la storia. No, l'ha inventata New York Times, una giornalista molto brillante, tra parentesi, che si chiama Sandra Blacksley. Lei ha scritto un ottimo libro proprio con Ramachandra, e lei ha scritto anche un libro sui neuroni specchio, in cui racconta, forse perché siamo in Italia, una cosa mitica. Cioè a un certo punto un nostro studente è entrato e ha preso una nocciolina, l'ha aperta e il neurone ha sparato. A questo punto lei ha detto, abbiamo scoperto i neuroni specchio. Allora ci dica la verità, com'è andata veramente? Non c'è la verità, noi ci siamo messi in questa situazione che le dicevo, di studiare da un punto di vista etologico l'animale, e quindi noi davamo l'animale effettivamente del cibo, talvolta lo rompavamo, stavolta facevamo altri gesti, insomma intorno alla scimmia facciamo un po' di teatro, e noi volevamo sapere come il sistema motorio trasforma in un oggetto in movimento. Faccio un esempio: se un oggetto piccolo lo piglio con due dita, se una tazza la piglio con la mano, cioè c'è una trasformazione visuomotoria da oggetto a movimento. Questo era un estratto della puntata che ha visto come ospite principale, come protagonista, Rizzolatti, lo scopritore dei neuroni specchio. Ma passiamo all'ultimo punto di questo breve prima parte, che è il primo vaccino per l'AIDS. Abbiamo un servizio che annuncia questa scoperta. Breaking medical news this morning, a new AIDS vaccine has been developed. This is the first one that seems to actually prevent the spread of HIV. CBS News correspondent Elizabeth Palmer has the latest from London. Good morning, Liz. Good morning, Harry. Yes, these surprising and bound to be controversial results come from a very large field trial conducted in Thailand and sponsored by various organizations, including the U.S. Army. The results showed that an experimental vaccine reduced the HIV infection rate by 30% in a cross-section of 16,000 volunteers. The Thai young people were given a combination of two older vaccines, neither of which had proven effective alone, but for some reason, given together, they appeared to offer some protection after the three-year-long trial. Il primo vaccino sull'AIDS. Parliamo tanto di vaccini, questa è una notizia importante perché siamo arrivati finalmente a un giro di boa. È un vaccino che, ok, non funziona al 100%, anzi è molto lontano dal 100% perché abbiamo un 30% di efficacia, però è la prima volta che siamo arrivati a questo livello di sperimentazione così avanzata in Thailandia e abbiamo avuto una risposta immunitaria in una parte dei soggetti. È una grande speranza. Ecco, peraltro infatti ci muoviamo ancora nell'ambito delle speranze, onde evitare di dare, cioè siamo agli inizi, non siamo di fronte a un vaccino pronto per essere sperimentato negli uomini, o mi sono sbagliato? No, ti sei sbagliato. È stato sperimentato negli uomini e nei bambini e ha dimostrato il 30% di efficacia. 30%. Non è molto, molti vaccini pensiamo arrivano al 50-60, i vaccini quelli più efficaci arrivano oltre il 90%. La storia dell'AIDS, la storia del vaccino dell'AIDS, anche questa è stata una diatriba poco scientifica e molto politica, se non ricordo male. Ci sono tantissimi soldi sui vaccini dell'AIDS. Infatti in realtà è un bubbone, è una ferita aperta, perché si è investito tantissimo nel vaccino che tarda ancora ad arrivare sul mercato, anzi non, appunto, vediamo che non c'è, perché questo che abbiamo visto non sarà commercializzato. Chi diceva che non serviva un vaccino dell'AIDS, ci sono alcuni che hanno asserito questa cosa dicendo ma insomma ci sono già soprattutto alcune case farmaceutiche, ci sono già le medicine, ci sono già, funzionano. Il punto, la svolta grossa bisogna dire che l'ha fatta arrivare Nelson Mandela, se vogliamo, certo. Tutti i paesi che l'hanno seguito, perché da quando si hanno le triterapie e gli antivirali a basso costo per i paesi in via di sviluppo, come hanno mostrato i dati di quest'anno presentati appunto alla fine di novembre, c'è stata una regressione della malattia nei paesi in via di sviluppo. Quindi i farmaci antiretrovirali funzionano. Avere il vaccino, però, con un vaccino si può parlare di debellare la malattia. Ricordiamo, esiste il vaccino, 30%... Vedremo nel prossimo anno quali potrebbero essere gli sviluppi, che viene insomma testato. Sì, non ce l'avremo il prossimo anno, vedremo dei passi avanti, questo sì. Stiamo passando in rassegna, da bravi scienziatini, insomma, le 10 scoperte scientifiche che secondo noi, anzi secondo Guido Romeo, lo dico e lo ridico, hanno in un certo senso caratterizzato tutto il 2009. La scoperta, il prossimo punto è la ridata delle scimmie. Ridono, allora, anche le scimmie ridono, e questo è il punto. Sentiamole. Maxi! C'è poco da ridere, perché cioè, tra l'altro è una risata umana, mi sembra evidente. Ma quella era di Orango, mi sembra. Tu le sai distinguere. Ah, beh, certo. Mamma mia, cioè Darwin, veramente. Noi ci fermiamo un attimo, ci sentiamo tra pochissimo. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada ai microfoni, Guido Romeo. Stiamo passando in rassegna, da bravi scienziatini, insomma, le 10 scoperte scientifiche che secondo noi, anzi secondo Guido Romeo, lo dico e lo ridico, hanno in un certo senso caratterizzato tutto il 2009. Perché la ritratta della scimmia dà ragione a Darwin, per cui dà ragione all'evoluzionismo? Ma ecco, hai centrato il punto, perché il legame con Darwin è forse la cosa in più importante di questa, che sembra quasi un aneddoto, una notiziola. Che poi non è una scoperta, cioè soprattutto perché non si sono mai messi lì a far ridere le scimmie, secondo me. Sì, che si sono messi a ridere le scimmie, si sono messi a scolleticare gli orango e gli scimpanzé, e hanno scoperto che ridono come ridono i nostri bambini. Cioè che... Io mi immagino il ricercatore, poi c'è questo aspetto, no? Che fai? Ma io faccio ridere le scimmie, allora battute, no? No, ma ti metto lì con la piuma, e quanto guadagni? Poco, perché sono ricercatore. Ah, va bene, allora funziona. Però mi diverto, le scimmie, ridiamo tanto. Ci ridiamo esatto. Un po' tutti. Però il punto è che se tu solletichi la scimmia, domani te la porto magari, e me la solletichi un po' la scimmia, e lei ride come ridono i bambini umani, cioè non hanno questo riflesso involontario, incontrollato, ma hanno proprio lo stesso processo neurologico che abbiamo noi umani. Questo cosa vuol dire? Che c'è un tratto evolutivo molto importante, molto antico, che passa per il linguaggio, che passa per la risata. Beh, che sì, da noi è stata mediata attraverso il linguaggio, ma che comunque risale a uno stimolo fisico e che risale a più di 6 milioni di anni fa, cioè da quando ci siamo separati evolutivamente, il ramo degli ominidi si è separato evolutivamente da quello degli altri primati. Cosa risponderebbe un negazionista, un creazionista? Secondo me si mette a piangere. E però dobbiamo scoprire anche che le scimmie piangono, perché poi ci sarà anche il pianto da scoprire. Ma il creazionista ride, questo. Esatto, ma il creazionista ride. Però insomma, noi dobbiamo rispettare tu, sai come fa nel buon conduttore che rispetta tutti. No, non è vero, noi non rispettiamo tutti. Guido Romeo c'ha una visione della vita molto chiara, io ho la mia, ma me la tengo per me. La visione della vita non è chiarissima, la visione dei fatti scientifici è più chiara, e quindi rispettiamo le opinioni. Però questi sono fatti incontrovertibili, cioè non c'è storia, come si suol dire. Poi è anche, secondo me, è anche tutto da capire se la risata è esattamente umana. Cioè, chi te l'ha detto che quella è una risata? Magari è un gesto di sofferenza, cioè lo scimpanzé mica te lo dice che quella per lui è una risata. Magari soffrono, solo che qua soffrendo emettono un suono simile a quello della risata, È come la lacrima di coccodrillo. Guarda, ti ho trovato la controreplica dei creazionisti, così, senza leggere niente. Domani ti porto il gorilla, guarda. Va bene. Passiamo a gli xenotrapianti. Ecco, questo tra l'altro è un temone, nel senso... Questa è una parola che hai imparato, finalmente. Questa è una parola che ho imparato e che so dire senza impappinarmi, e sono passaggi, no? Prova a dire tu. Xenotrapianti. Ok, è andata bene. Allora, noi abbiamo dedicato una puntata agli xenotrapianti, abbiamo avuto... Dici cosa sono, visto che sai pronunciare. Allora, sono i trapianti di cellule animali, non umani, che insomma, tra l'altro le applicazioni sono per non potenziare l'uomo, ma per sostituire determinati organi. Non si sa. Diciamo che con la staminali tutto questo filone di ricerca è messo seriamente in discussione, questo possiamo dire. Ma guarda, è un punto interessante questo, ne abbiamo parlato infatti con i nostri scienziati alla Vitrano. Abbiamo Maria Luisa Vitrano, per cui abbiamo ragionato su, in particolare sulle cellule dei maiali, no? Se non sbaglio. Sì, beh, lei fa, come dire, maiali umanizzati, nel senso non che sono più simpatici, ma nel senso che hanno tessuti compatibili con quelli umani. E visto che il maiale ha anche organi simili in grandezza a quelli umani, come il cuore, il fegato, i reni, questi sono molto interessanti. Sulle staminali c'è ancora stato da fare, perché fare un tessuto, infatti, è una cosa, fare infatti, un organo è no, però diciamo che c'è chi, se deve scegliere gli investimenti, in questo momento si è detto, beh, se devo scegliere il mio dollaro dove metterlo, preferisco lo metto sugli xenotrapianti. Tu lo metti no, ma lo stanno già facendo. No, non è vero, ma c'è un'azienda che lo sta facendo. Ma un'azienda che sta facendo, non ci perdiamo, perché poi non interessano queste nostre discussioni, però interessa il fatto che è andata in onda questa puntata e ne ascoltiamo una sintesi. Con Corrado Spadafora stiamo facendo esperimenti di tutt'altra natura e su tutt'altro argomento. Per caso capitò di vedere che gli spermatozoi, che sono le cellule germinali, che quello che fanno, diciamo, per loro natura è trasportare il loro stesso DNA nell'uovo al momento della fecondazione, erano anche delle cellule che potevano trasportare del DNA esogeno nell'uovo al momento della fecondazione, e questa era una cosa, come dire, che rompeva uno dei dogmi fondamentali dell'evoluzione secondo Darwin, per cui le cellule germinali sono assolutamente impermeabili a qualsiasi macromolecola esogena, e quindi diciamo era una cosa così un po' difficile da digerire anche per noi, ci sembrava molto strano, però l'avevamo ripetuto tante volte questo esperimento e volemmo assolutamente dimostrare che questo fosse vero, e quindi per dimostrarlo decidemmo di utilizzare questi spermatozoi che portavano del DNA esogeno, quindi un gene che noi gli avevamo dato all'esterno, per produrre degli animali geneticamente modificati. Quindi facemmo delle fecondazioni in vitro insieme a dei colleghi dell'Università di Tor Vergata e producemmo dei topolini transgenici. Da lì? E da lì diciamo, poi guadagnammo le prime pagine di tutti i giornali, pensi un po', nell'89 finimmo anche sul New York Times, al Washington Post, dappertutto, però è cominciato, come ecco, dire, io vorrei fare, un calvario. Fare un... la Vitrana, io vorrei farle fare un salto in avanti di 20 anni, perché lei ci ha raccontato l'azzardo e dicevamo che l'azzardo ha pagato. Dai topolini siete passati ad animali ben più grandi e anche ben più simili all'uomo, ai maiali. Cosa fate oggi con i maiali? Ma guardi, oggi con i maiali appunto siamo impegnati in questo progetto che, ripeto, più che fantascientifico è molto scientifico, tant'è vero che è finanziato dall'Unione Europea, un progetto che si chiama Xenom. Noi cerchiamo di produrre dei modelli animali che possano essere fonti di cellule, tessuti ed organi per il trapianto nell'uomo, quindi che possano essere utilizzati per l'ossenotrapianto. E credetemi, l'ossenotrapianto non è fantascienza, oggi è una realtà scientifica, almeno per quanto riguarda le cellule. Avete sentito in Nuova Zelanda il trapianto di insule pancreatiche. Ma siete pronti a fare gli organi come appunto scrivono gli scrittori di fantascienza, come scrivevano fino a poco tempo fa, o addirittura li state già facendo? Perché io ho visto appunto sperimentazioni molto avanzate ancora nell'animale, ma già che guardano a tessuti umani, a sangue umano. Dunque, le sperimentazioni sugli animali sono abbastanza avanzate, ma nessuno di noi scienziati si sente ancora così sicuro da poter fare uno xenotrapianto clinico, da poter procedere a uno xenotrapianto clinico. Ci sono ancora moltissime vie molecolari che devono essere studiate, moltissime ancora modificazioni genetiche che devono essere introdotte negli animali. Quale sarebbe lo xenotrapianto d'organo non è vicino. Quella che avete sentito era una puntata dedicata agli xenotrapianti, l'abbiamo detto bene, l'ho detto bene. Siamo alla scoperta numero 8, il teletrasporto. Sei mai impazzito? Beam me up, Scotty, come dicevano, sì, in Star Trek. Energia. Energia, Scotty, trasporti. Beh, No, anche no. Cioè, sì, ma anche no. Cioè... insomma, troviamo una via di mezzo. Non ci facciamo trasportare. A me piaceva un po' di viaggi nel tempo, cose così. È un tuo desiderio. Senza però, più code, cioè... caselli, telepass. No, la verità vera è che la stanno studiando. La verità è che la stanno studiando. Sono riusciti a trasportare, a fare teletrasporto di 1,5 metri circa. E naturalmente di elettroni, cioè di informazioni. Però, questo è successo in alcuni laboratori del Maryland, dell'Università del Maryland. Tra l'altro ho scoperto che stanno studiando il teletrasporto anche in Olanda, cioè che è una cosa che mi ha abbastanza colpito. Però vabbè, andiamo avanti. Ma è perché c'hanno i buchi nel formaggio, sai, allora ma ci potevamo sono... lasciarla passare così, senza chiusarla, questa cosa qua. Però vabbè, nel senso che però a me può stupire, però insomma il teletrasporto è oggetto di ricerca. Ma il teletrasporto, come l'abbiamo visto in Star Trek, probabilmente non lo vedremo mai. Però quello che è trasferimento di informazioni, in realtà potrebbe essere il futuro di TLC, internet. Pensa se tu potessi trasferire informazioni senza, come dire, avere cavi, avere onde radio, né niente, potessi avere semplicemente un teletrasporto di informazioni che ti costruiscono, ti permettono di costruire una cosa. Sì, e poi le intercettano, poi ci sarà tutto il problema degli hacker, gli hacker del teletrasporto. E poi ti ricordi, gli hacker non ci saranno più. Gli hacker non ci saranno più. Noi tra l'altro abbiamo specificato durante Nova Lab 24 che noi in realtà intendiamo i cracker, non gli hacker, perché gli hacker sono gli smanettoni, cioè una cultura buona dell'informatica, la cultura di colui che vuole mettere le mani nei computer, la che condivisione. Vuole la condivisione, il programma. I cracker invece sono quelli cattivi, sono insomma quelli che entrano per distruggere, che hanno dei dati, hanno degli scopi delinquenziali, insomma sono questa gente qua. Comunque non so perché siamo arrivati a parlare di hacker, ma il centro della questione è che insomma è un desiderio, è una speranza, ma qualcuno sta studiando il teletrasporto per noi. Stanno studiando e ci stanno investendo. Siamo passati dal teletrasporto che abbiamo raccontato prima al vaccino universale da un anticorpo umano. Eh sì, per i vaccini io ho un debole, confesso. Visto, cioè, però insomma... abbiamo due vaccini. Questa è una scopertona. questa è una scopertona, ma non è ancora un vaccino, perché hanno scoperto un principio importante. Ed è, questo è stato pubblicato da Jinyu Hsui su Nature Structural Molecular Biology, quindi è una rivista importante, ma molto fondamentale. Lo sapevamo che cosa ha scoperto. Non è che devi sottolineare una rivista, ma lo sappiamo, è importante. Cioè, dimmi l'impact factor. Nature. L'impact factor è altissimo, altissimo. Ma perché tu sai anche qual è l'impact factor di... No. No, di questa versione qua no, di Nature, no, è, Nature vabbè, è su Nature 4. Nature Science lo sappiamo, però... Ma torniamo a bomba. Che cosa ha scoperto il nostro amico Sui? Ha scoperto che ha trovato la zona del virus, delle proteine virali, in particolare la proteina H. Vi ricorderete forse, chi l'ha ascoltata, una delle nostre prime puntate in cui parlavamo dell'H1N1, l'H5N1, influenza viaria, influenza suina. Qualcuno in questo momento è anche a letto con l'influenza, possibile. Speriamo che non sia là, ma no, speriamo che sia una forma leggera. Ma le due proteine chiave sono la H, l'emaglutinina, e la N, che è la neuramidasi. E tutti i vaccini finora hanno funzionano utilizzando, sparando sulla N. Invece Sui è riuscito a trovare un bersaglio sulla proteina H. Questo è molto importante perché promette di essere un bersaglio universale che funziona sempre, che manda in balla la replicazione del virus, quindi l'infezione. Qual è il 10 su 10? Le conseguenze di un vaccino universale. Cioè, le conseguenze sono anche una ridefinizione di quella che è poi la salute. Le conseguenze sono che se Sui la brevette riesce a cavarci un farmaco fa miliardi di dollari. Il dinosauro, siamo nell'ultimo punto, il dinosauro più piccolo del mondo, giusto? È il più piccolo del mondo. Ma in dimensioni? In dimensioni, in peso, è grande più o meno come un gattino domestico, insomma, un po' come quello finto inutile, che c'hai a casa tua. Esatto, no, io ho il robottino come dinosauro, no. È bellissimo. Comunque, cioè, inutile. Cioè, il dinosauro piccolo e così, infatti è estinto. Cioè, perché in un momento in cui tutto è grande, cioè nasce una cosa piccola, è no, una contraddizione. Siamo in una fase di decrescita tremolata, cioè devi uscire da questa logica che è più grande è più bello, quindi torniamo nel piccolo. Fermiamoci qua, non devi evitare di entrare. Comunque, in vuoi sapere come si chiama? Diciamo come si chiama. È l'Hesperonychus elizabethae, è stato scoperto in Canada ed è circa 2 chili di dinosauro. C'ha le scaglie? No, c'è il piume, questo è piccolino. C'è il piume, salta, vola. Un piccolo tiranosauro è un pollo sostanzialmente. Noi adesso ci fermiamo, ma ci sentiamo subito dopo. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono. Abbiamo visto un po' tutti i fatti principali, 10 fatti principali del scientifici del 2009 e insomma a questo punto proseguiamo, abbiamo spolverato, elucidato la nostra palla di cristallo e adesso facciamo proviamo. I futurologi, facciamo mamma mia, un 10 minuti di futurologia su cosa succederà nel 2010. Chiaramente verrà tutto registrato, poi l'anno prossimo, nel 2010, verificheremo un po' quello, se ci abbiamo azzeccato o meno, ma non ci azzecchiamo, cioè, però andiamo avanti. Verrai così. Qui con la bacchetta e poi saranno dolori. Guido Romeo, appello. Come dice, partiamo. Allora, cosa succederà? La prima è molto carina, è molto interessante, i cinesi arriveranno su Marte, meglio, la prima sonda cinese... Per la precisione, la Yinguo 1 partirà per Marte. Il pianeta rosso. Il pianeta rosso pieno dei cinesi. No, il rosso per il pianeta rosso, cioè la Cina rossa per poi Cina rossa. Ma non soltanto, non è l'unico evento, diciamo, legato allo spazio. Ci sarà anche l'ultimo volo dello shuttle, anzi degli shuttle. Questo per tanti appassionati. Tra l'altro è curioso, cioè si chiude un'era, l'era dello shuttle, l'era dell'esplorazione spaziale, l'era della NASA che riceveva quintali di finanziamenti per andare nei pianeti sconosciuti alla Star Trek, invece saranno probabilmente i cinesi, potrebbero essere i cinesi. Beh, attenzione, non si chiude un'era, c'è però un cambio di marcia, perché è vero, finisce l'era Shuttle, che doveva finire da anni perché era un mezzo vecchio, perché dopo il Columbia c'erano state tante polemiche, ma incomincia una nuova era fatta di macchine erano diverse. Erano finiti gli incentivi per la rottamazione, gli americani, c'è Obama, insomma, vabbè. Comunque sì, è un po' questa la storia. Le tre navicelle che rimangono, i tre shuttle che rimangono, l'Endeavour, l'Atlantis e Discovery, lì faranno tutti un ultimo volo e chiuderanno un po' la fase. Vedremo i primi voli invece con gli ATV, con i moduli automatici per il trasferimento della stazione Dunque, spaziale. Poi è un classico quanto insomma l'esplorazione dello spazio sia legato poi alle politiche di potenza delle nazioni e ai cambiamenti insomma nello scacchiere geopolitico. Beh, Obama ci tiene molto alla politica dello spazio, è un grande simbolo per gli americani e anche per i cinesi, questa è un'altra cosa che hanno in comune insieme. I russi sono un po' tirati indietro. I russi sono tirati di soldi. Sono tirati di soldi, però hanno le materie prime. Per cui hanno le materie prime e il programma cinese sostanzialmente è stato acquistato almeno per la prima parte dai russi, certo. Cioè la loro, quella che il loro hanno sviluppato. Vecchi rapporti di amicizia politica. Stiamo divagando, sì. Stiamo divagando. Passiamo oltre e ritorniamo sulla Terra, perché nel 2010 probabilmente nascerà Cynthia, che non si scrive con la C come Cinzia, ma con la S, perché... perché è un organismo sintetico. Sarà te il la primo... conti, cioè, se fai me le la domande, canto e me la suono. Se faccio una domanda si dia una risposta. Quindi Cynthia che cos'è? Sarà il primo organismo completamente sintetico e il papà di Cynthia, tra virgolette, sarà Craig Venter, uno scienziato che conosciamo diciamo bene. Due parole su Craig Venter, insomma questa è la grandissima annuncio di una vita artificiale, di una vita sintetica. È assolutamente, come dicono molti, che Craig Venter gioca a Dio. Craig Venter, ricordiamo, è il ragazzaccio cattivo. Ricordiamo anche l'aneddoto di quando il giornalista si avvicinò a Craig Venter dicendo, anche arrabbiato, ma allora lei sta giocando a Dio? E la risposta di Craig Venter è, io non sto giocando. Craig Venter io l'ho intervistato un paio di volte, in effetti lui è uno che non ha l'aria affatto di giocare, è serissimo, sconta anche, come dire, un anni di emarginazione, di sfiducia da parte della comunità scientifica. È un personaggio discusso comunque. Discusso però che è riuscito a fare cose che altri dove altri hanno toppato. Quindi noi facciamo una facile previsione dicendo che molto probabilmente si parlerà di lui, anzi scommettiamo che si parlerà di lui nel 2010. Scommettiamo tranquillamente, una scommessa sicura, perché gli ultimi paper che ha pubblicato negli ultimi due anni hanno mostrato che ce la può fare, e quindi diciamo che il 2010 è assolutamente l'anno in cui si può pensare di vedere questo primo microorganismo sintetico. Vabbè. Quindi la vita in laboratorio veramente. Ma andiamo oltre. E rimaniamo però appunto in tema di genetica, perché anche questo è interessante, e nel 2010 avremo il genoma per tutti, ma anche il genoma di Neanderthal. Queste sono in realtà due notizie sul genoma, e la prima è che caleranno drammaticamente. Aspetta, facciamo una spieghiamo che stiamo prevedendo le cose. Stiamo prevedendo. Uno si mette in collegamento adesso e dice: ah, cavolo, l'hanno scoperto. No, non stiamo prevedendo, nel senso che non siamo indovini, non abbiamo la capacità di previsione. Stiamo scommettendo con una buona certezza. Ci misuriamo, ci avventuriamo in un terreno che non ci appartiene, quello delle previsioni. Facciamo una scommessa calcolata, insomma, è una previsione, non è una predizione. Quindi torniamo a Neanderthal. Torniamo al genoma. La prima che dicevo è che avremo il genoma per tutti, cioè nel 2007, quando Jim Watson, lo scopritore della doppia elica del DNA, fu il primo a farsi sequenziare tutto il genoma, costò una cosa come $1 milione fargli la sequenza del genoma. Oggi? 2007, due anni fa. L'anno prossimo, tra poche settimane, potrebbe costare meno di $5,000, quindi una divisione per veramente... E ricordiamo anche che c'è un forte filone di studio per cercare di abbassare sempre di più il prezzo, di portarlo poi a insomma, diventare poi un'opzione medica questa qui del, beh, del... è già un'opzione medica nel però senso adesso costa un centinaio di migliaia di dollari sostanzialmente, quindi però insomma, naturalmente gli americani, come fanno sempre gli americani, l'hanno trasformato in una gara. C'è un premio di 10 milioni di dollari per chi abbatterà il costo della sequenziazione di genoma al di sotto di 10 mila dollari, e in effetti 10 mila dollari per una pratica medica è a quel punto cosa succederà? Adesso è un'opzione per Nababbi, però nel momento in cui scenderà sotto una certa soglia sarà possibile quella che noi chiamiamo la medicina personalizzata, la medicina genetica, cioè sapere già in anticipo un po' i rischi. Si sapranno i rischi, poi da lì al fatto di dire tu avrai quella malattia è una cosa diversa. In quel dato giorno, in quel dato giorno, data, vabbè, certo, è tutta un'altra cosa. No, è importante perché dice sì, tu puoi avere una predisposizione, un rischio di tumore o di altre malattie gravissime, non è detto che tu le avrai, perché conta come tu vivi, che cosa fai, fumi, non fumi, tante cose, insomma. Quindi non conosceremo il nostro futuro, conosceremo dei rischi possibili, potremmo inciampare in quei gradini, ecco. Ecco, invece l'altra sul genoma di Neanderthal, che secondo me è la più bella, ma io sono un po' appassionato di queste di storie di neandertaliani. Esatto. E sono convinto... Apprezzi anche... che non ho fatto battute su questo aspetto? È stato carino. Andiamo avanti. No, perché stai immaginandoti adesso le battute, però se ne immaginano gli ascoltatori. No, perché sì, stai dicendo che io assomiglio a un Neanderthal, cioè, era questa la cosa. La cosa è tutta da scoprire in realtà, perché su Neanderthal ci sono un sacco di luoghi comuni, anche, come dire, molto ideologici, perché è l'altra specie, l'altro uomo che non si è mai sviluppato, è il cugino un po' misterioso. Finalmente nel 2010 avremo tutta la sequenza del suo DNA e... Questo cosa ci permetterà di fare? Questo ci permetterà di vedere se veramente ci sono stati scambi, cioè se veramente ci sono o non ci sono quei pezzetti comuni che alcuni per adesso escludono. Fino adesso si è sempre detto che Neanderthal è un'altra specie. Neanderthal e Cro-Magnon, cioè i Cro-Magnon sono i nostri antenati, i Sapiens Sapiens, hanno vissuto in Europa nello stesso periodo. Sono incontrati, sono conosciuti, forse si sono parlati, forse hanno combattuto. Domanda è: si sono accoppiati? È questo, c'è la storia. E se si fossero accoppiati, questo cosa potrebbe cambiare nella concezione dell'evoluzionismo, del creazionismo? Cioè questa... Ma il creazionismo non cambia niente, perché loro camminano per i fatti su loro. Però nell'evoluzione sicuramente rimette in gioco molte cose, e vuol dire anche che noi abbiamo una parte di patrimonio genetico che condividiamo anche con i neandertaliani. Devo farti inciampare sul creazionismo. Non ci sono riuscito, abbiamo tempo ancora per una previsione, l'ultima previsione. L'ultima previsione è il web poliglotta, anzi questa direi che è una certezza, e tutti sappiamo che i domini web li leggiamo tutti in caratteri latini. Chi usa un alfabeto diverso da quello latino, cirillico, arabo, altro, si vede convertite le sue parole in questo pidgin. Questa è una previsione che già abbiamo, già passata, quindi la previsione è che vedremo finalmente un web che non sarà solo in inglese. No, ecco. L'ICAN, che è appunto l'ente internazionale che assegna i domini, è già pronto e assegnerà i primi domini in russo, pare, all'inizio dell'anno prossimo. E tra l'altro pare che quindi probabilmente vedremo crescere a dismisura il web asiatico. Cioè sarà veramente globale, cioè finalmente sarà una globalizzazione del web, anche linguistica, nel senso non è usciremo un po' da quelle che sono le secche occidentali. E come è successo per l'esplorazione spaziale, anche per il web, insomma, vedremo un mondo che cambia o che rispecchia forse in maniera diversa quello che sta succedendo. Beh, sarà molto interessante, perché lì c'è tutta un'economia che si sta sviluppando, c'è un vuoto a colmare, quindi succederanno molte cose anche su quel fronte. Succederanno molte cose, che è l'unica previsione che mi sento di sottoscrivere. Ringrazio Guido Romeo, ringrazio gli ascoltatori e noi ci sentiamo domani.